Onda Verde, viaggiare informati. I principali aggiornamenti ci portano sulla tangenziale ovest di Milano, code a tratti per circa 8 chilometri a causa di un incidente comunque già risolto. Siamo tra lo svincolo Ropero e la Via Giovanese Nuova in direzione dell'autostrada 1 e andiamo proprio in A1 dove ci sono code per 7 chilometri tra Fidenza e allacciamento Piacenza Sud verso Milano. Vediamo cosa accade in A10, code e veicolo in panne tra Genova Voltri e Arenzano verso Ventimiglia e code per lavori tra Finale Spotorno verso Genova. Anche in A7 troviamo delle code, siamo allo svincolo di Genova Bolzaneto in uscita per chi arriva da Genova. In A11 in questo momento traffico molto intenso e quindi code tra barriera Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, e in A1 ci sono code, traffico congestionato da segnalare tra allacciamento diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. È tutto, grazie per l'attenzione da Repubblica Utilità, buon ascolto.